Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, giornata non particolarmente natalizia, quella che è appena andata in scena in questo fine settimana per le ragioni che sapete. Giulio Torelli, che è un ascoltatore fedele che spesso scrive mail, quindi insomma un po' più meditate, firma l'editoriale di oggi in realtà. Perché scrive: si sono viste anche in questo fine settimana un sacco di sviste che hanno palesemente spianato la strada alle tre big. Quando si registra continuità in queste situazioni, la gente comincia a innervosirsi. E devo dire che si fa fatica a spiegarlo alla gente e agli appassionati. Inter in gol decisivo con 2 metri di fuorigioco, Milan che stravince, ma che partita sarebbe stata con Maldini espulso dopo 10 minuti, Juve che sblocca con un gol partito da chiaro fuorigioco e sull'1-0 un rigore negato all'Atalanta. Diciamo insomma che alle tre grandi il Natale è puntualmente arrivato, difficile contestare questa tesi. Poi fioccano ovviamente già sin d'ora i messaggi più dettagliati. Arrigo da Milano scrive: è corretto dire che sabato a Siena abbiamo assistito al gol più in fuorigioco della storia del calcio? Adesso fuorigioco della storia del calcio bisognerebbe avere presente delle casistiche limite, quella di Siena certamente lo era. Io devo dire che non dimenticherò mai un fuorigioco fischiato contro il Milan all'Olimpico in un Lazio-Milan del 73, direi, quando Chiarugi segnò un gol che era buono di almeno 3-4 metri, ma proprio almeno 3-4, insomma, diciamo, quindi il doppio dell'altra sera, la volta che il grande e indimenticabile Nereo Rocco si alzò dalla panchina, si levò il cappello di fronte a Lobello lo cacciò fuori e lui tese il braccio nel saluto romano a Lobello e poi gli fecero fare pace in qualche maniera, anche se fu una pace fasulla. Ascoltiamo i commenti e andiamo stavolta in ordine di classifica, perché poi per quest'anno solare è finita in questa maniera. E per esempio, sto guardando la Corriere dello Sport delle statistiche, il miglior attacco del 2008, parliamo di anno solare, è del Milan, che ha segnato 73 gol contro i 67 della Juve, i 63 dell'Inter, i 60 della Roma. La miglior difesa dell'Inter, che ha subito 28 gol contro i 35 della Juve, i 37 della Fiorentina e i 38 del Siena. Pensate, che al quarto posto in questa classifica. Siena che a maggior ragione non avrebbe meritato quella sconfitta di sabato, perché ha giocato una vera grande partita, a parer mio, di alta qualità, di grande aggressività e di estrema correttezza, perché essere così aggressivi in campo tatticamente ed essere così poco fallosi significa essere davvero bravi, essere ben preparati e sapere interpretare il calcio provinciale nella maniera più appropriata e anche più corretta. Dicevo, in ordine di classifica, quindi comincia Mourinho. Devo dire che questa partita non la meritavamo vincere, e non lo dico perché il nostro gol della vittoria è stato in fuorigioco, perché un fuorigioco sbagliato è il gioco, e non è stato uno, sono stato due, è anche uno di quando Crespo è completamente da solo, non è fuorigioco, e chissà, sarebbe un gol un gol, come si dice, clean. E non si parlava adesso di un gol della vittoria che è in chiaro fuori gioco. Io preferisco dire che non avevamo meritato vincere, non per questo, non avevamo meritato vincere perché il Siena ha giocato molto molto bene. Una squadra molto ben organizzata, che è molto difficile per il suo avversario giocare. Un pressing molto intenso sulla palla, un controllo molto bravo della profondità del gioco, difficile per noi di uscire da situazioni di pressione, difficile per noi di giocare in profondità, dopo loro con un ritmo e un'intensità nella uscita per contropiede molto difficile di controllare, arrivavano sempre con 2, 3, 4 giocatori in situazione di cross, e anche dopo il 2-1 abbiamo avuto 2 o 3 possibilità di grande pericolo vicino alla nostra porta. Complimenti a Giampaolo, che già l'ho fatto subito dopo la partita. Io gli ho promesso che la prima cosa che farebbe nella stampa sarebbe dire esattamente quello che l'ho detto a lui: complimenti, tu non meritavi perdere questa partita. Se ne sarà fatto molto, Giampaolo, di questi movimenti, per sportivi che siano, intendiamoci. Uno sportivissimo Mourinho, come è stato molto sportivo ieri Ranieri, nel dopopartita. Sinceramente quella volata a fondo campo ad abbracciare Maicon, degna di Malesani, non è stata, diciamo che non è stata particolarmente in linea con la plomb di uno special one, ripeto. Mi è sembrato un qualunque allenatore di provincia che perde la Trebisond. Solo Gattuso, scrive Lorenzo da Milano, può stare in campo con le stampelle pur non essendo distinta, cioè pur non essendo tra gli autorizzati, in altre parole, oppure lui è speciale. Beh, insomma, che Gattuso sia speciale non c'è nessun dubbio, che fosse o meno indistinta non lo so, cioè se avesse avuto una deroga particolare non saprei. Però prima di parlare di Gattuso che incita i suoi compagni con le stampelle, come indebita, cioè segue il suo ragionamento Lorenzo, come indebita presenza sul terreno di gioco, beh, parliamo delle centinaia di persone che continuano ad esserci a Catania, la cui indebita presenza è molto più indebita per l'appunto, e non sono nemmeno Gattuso, no? Cioè non hanno nemmeno dei titoli di merito, oltre che delle ragioni precise per stare lì. Andiamo avanti con la disamina e con i commenti di allenatori e giocatori in attesa dei vostri interventi in diretta all'800 24 00 24. Sentirei il commento di Ranieri sulla vittoria di ieri della Juventus a Bergamo. Il secondo tempo è stato molto, molto bello, molto combattuto, l'Atalanta ci credeva, noi non volevamo mollare, per cui è stata veramente una partita importante per noi e tre punti sono meritati, lottati, sudati. Abbiamo sofferto molto e questo è merito soltanto dell'Atalanta, che ha disputato una gran bella partita. Notizie di giornata. Saranno circa, è stato visitato Totti, saranno circa 30 giorni di stop per il capitano della Roma, che si è infortunato ieri ai flessori della coscia destra. Un'ecografia ha evidenziato una lesione muscolare prematura, una prognosi definitiva, ma i tempi di recupero, dicono i medici che l'hanno visitato e che hanno appunto valutato questa ecografia, dovrebbero aggirarsi intorno ai 30 giorni. Due incidenti gravi che per fortuna nel primo caso almeno non hanno avuto le conseguenze che si temevano, nella tarda serata di ieri è in nottata. Allora, nella tarda serata di ieri è toccato al presidente, al patron dell'Hellas Verona, il conte Arvedi, che è stato travolto sull'auto Brennero da un'auto guidata da un polacco quasi certamente ubriaco. Arvedi è ricoverato all'ospedale di Mantova in prognosi riservate con alcune fratture non particolarmente rassicuranti. È andata un po' meglio invece a un giocatore del Torino, Ogbonna, che ieri ha giocato da titolare, mi pare, la partita vinta contro il Napoli, che stamane alle 5 a Beinasco, alle porte di Torino, è uscito di strada alla guida di una Smart, è finito sul greto del torrente Sangone e pare si sia soltanto fratturato una spalla, dico soltanto perché dalla dinamica dell'incidente, almeno a leggere le notizie dell'agenzia, poteva andare molto ma molto peggio. Ci sono già degli ascoltatori collegati, volevo magari prima completare un po' il panorama dei commenti, di alcuni commenti su ieri, e quindi sentirei ancora per esempio Carlo Ancelotti. È andata bene perché la partita si è messa bene subito, siamo stati bravi a sbloccare subito il risultato, quindi proprio la partita è stata in discesa, anche se Ancolossi è fatto molto bene, molto disciplinato è stato, e anche Sedor ha dato un ottimo contributo. Poi la differenza tra le partite precedenti, c'è sicuramente un netto miglioramento di Pirlo, che ha giocato molto bene, con molta lucidità, con continuità, e d'altronde Pirlo per noi è un giocatore, diciamo, fondamentale per il nostro gioco. Sicuramente in questo momento soffriamo un po' quando siamo sotto pressione, non siamo solidissimi, e questo si evidenzia soprattutto nelle partite in trasferta. In casa non abbiamo il pallino del gioco, facciamo buone partite. Ronaldinho si deve abituare a giocare un po' più centrale, perché la posizione centrata crea più vantaggi a noi nella costruzione, insomma. Quindi sono meccanismi da trovare, anche se lui predilige giocare molto a sinistra. Il primo tempo è stato molto più centrale, dopo naturalmente nel gioco si può spostare a sinistra, che è la zona che lui predilige. Certamente un grande Milan, poi che si è trovato ad un certo punto la strada, se l'è spianata da solo la strada si sarebbe ricomplicata se per l'appunto l'episodio che abbiamo detto all'inizio fosse stato valutato diversamente, ma da lì certamente una grande prestazione calcistica molto divertente anche per il pubblico. L'agenzia appena uscita per l'appunto da Mantova conferma che sono ancora estremamente gravi, anche se stabili, le condizioni del conte Arvedi, il presidente onorario del Verona Calcio, che è precisa questo comunicato che il paziente è in coma ed è assistito con ventilazione. Andiamo avanti con la panoramica, tocca direi alla Roma, anzi no, l'Udinese no, tocca alla Roma. Sentiamo come Spalletti spiega questa debacle romanista, perlomeno per la prima ora di gioco e poi a momenti conclusa da una rimonta che avrebbe avuto la sensazionale. Spalletti: loro sono stati più bravi di noi. Noi sicuramente possiamo fare di più di quello che abbiamo fatto oggi, ma c'è da mettere in evidenza che loro sono entrati in campo in maniera molto aggressiva e hanno sviluppato un buonissimo primo tempo. Bisogna essere più svegli, bisogna essere più reattivi, più bravi tutta la squadra e non riportarlo su un reparto soltanto o su un modulo, ecco. Questa era Spalletti, allora sentiamo a quel punto sentiamo anche il commento di Zenga, visto che quella del Catania comunque rimane, vista la serie positiva da cui era reduce la Roma, rimane comunque un'impresa. Noi abbiamo preparato questa partita con grande attenzione, e sono stati bravissimi i ragazzi a interpretarla con sentimento, con passione, con coraggio, perché venivamo da due sconfitte in trasferta con Milano e Fiorentina, dove comunque la squadra in campo c'era stata, però gli mancava, diciamo, quella convinzione in più per poter battere una grande, e oggi noi abbiamo battuto una grande Roma. Dario ha chiamato dalla provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie. Dica. Una gentilezza, io sono milanista, però sono pronto a dire che Maldini andava espulso ieri sera. Sì. Ma quanti anni passeranno prima che vediamo che un arbitro, un guardalinea, faccia le cose come vanno fatte, come negli altri sport? Quando uno sbaglia, sbaglia, quando fa giusto, giusto. Allora l'Inter, la Juve, il Milan, sempre quelli. E premetto che sono milanista e andava espulso Maldini, ma non vedere cinque uomini in fuorigioco o uno è cieco, praticamente lo fa apposta, ma non perché io voglia pensare che ci sia del marcio, vorrei solo capire quanti anni vanno passare ancora prima che si veda finalmente che le cose vadano come devono andare. Una grande può, certo, perdere, una piccola può vincere, tutto qua. Tutto qua, sembra poco, e invece continua a essere l'obiettivo, quello della parità di trattamento continua a essere una chimera. E temo che quest'anno, proprio perché c'è questa lotta, c'è questo testa a testa, tra l'altro con una rivalità storica, penso che non sia finita qui, che ne vedremo ancora, anzi non vorrei che ne vedessimo di peggiori, così a scoppio ritardato, no? Visto che oltretutto per via di anticipi e posticipi praticamente sempre giocheranno prima l'una e poi l'altra, e allora se per caso ci sarà un favore all'una, cosa che insomma non è mai da escludere, no? come stiamo vedendo, il giorno dopo è possibile, come è stato già stavolta, che ci sia un occhio di riguardo anche per l'altra. Andrea, provincia di Torino, buongiorno. Buongiorno signor Garanzini. Dica. Grazie per avermi chiamato. Prego. Vado un po' in controcorrente rispetto all'inizio della trasmissione, solo con una notazione. Secondo me bisognerebbe non guardare solo la moviola alla sera, ma guardare tutte le partite. Mi riferisco al caso di Bergamo, semplicemente per un fatto che probabilmente le grandi verranno sempre aiutate, ma una decina di minuti prima dell'errore del guardaline, lo stesso guardaline ne aveva commesso un altro sullo stesso giocatore della Juve che andava in porta da solo in gioco. Quindi probabilmente quel guardaline non è capace ad alzare la bandierina quando si deve. Di lì a dire che la Juve abbia avuto questo grossissimo vantaggio, fossi nei tifosi dell'Atalanta me la prenderei più con il loro portiere, perché quella palla non era impossibile da catturare. Detto questo, so che probabilmente la mia sarà una voce fuori dal coro, la ringrazio e le faccio tante. No, è la voce di chi è abituato a un certo trattamento, di favore anziché di sfavore. Vede, io sabato cioè ieri ho anche trovato la parola scandalo in un titolo in prima pagina sulla stampa, fuorigioco scandalo, beh insomma, dato che ricordo con quanta parsimonia giustamente questa parola sia sempre stata usata, e cioè mai da quel quotidiano quando succedevano cose a parer mio anche vagamente peggiori nel senso che erano sistemiche, diciamo che questa parola scandalo usata, ripeto, in un titolo sia pur piccolino della stampa in prima pagina, in copertina, mi è sembrato un po' ridondante. Torniamo in onda, ci sono molti ascoltatori in attesa, ci sono anche alcune letture interessanti da fare dei quotidiani stamane, per esempio quella di un ritratto di Griselli, l'assistente dell'altra sera, insomma quello che ha compiuto questo errore veramente incredibile a Siena, un ritratto di Fabio Monti particolarmente gustoso sul Corriere. Adesso do spazio a un paio di interventi vostri, poi magari facciamo un intervallo proprio con questa lettura. Ci sono anche un paio di frasi di Cobolli Gigli, il presidente della Juve, che mi pare meritino attenzione. Credo tocchi, se non sbaglio, sulla linea 4 per dare precedenze giuste. Attendo un cenno che è arrivato a Matteo da Perugia. Buongiorno. Buongiorno, signor Garanzini. Dica. Senta, io volevo uscire un attimo dal ragionamento di fuorigiochi vari che oramai bene. Ne parliamo sempre. Ma con piacere. Tempo fa parlava un po' della difficoltà che ha il campionato italiano di vendere i diritti all'estero. Mm-hmm. Ora, io sono un tifoso juventino e ieri ho visto Atalanta-Juventus e per l'ennesima volta ho visto una partita di Serie A, quindi del massimo campionato nazionale della nazione, che ha la squadra rappresentativa campione del mondo, giocata su un campo indegno, un campo di patate, no? Ora, sì. Lei spesso racconta che vede partite anche estere del campionato spagnolo, inglese, forse tedesco, ma anche i campi all'estero sono così? Per quello che vedo io non mi pare. No. Oppure è soltanto una prerogativa nostra? Perché poi è chiaro che lo spettacolo ne risente, è come se vada a un concerto e l'impianto audio funziona male. Bravissimo. Poi non ci lamentiamo se non vendiamo i biglietti. Bravissimo. No, è una, non è un'esclusiva mondiale, ma è una specialità della casa. Ecco, questo certamente sì. Lei ha parlato di Bergamo ieri, Marassi è un terreno in condizioni pessime. Il fatto che ieri Montolivo sia riuscito a tenere basso quel pallone dal limite calciato al volo d'interno significa che è una prodezza, ma che vale anche di più, perché non sai mai come ti rimbalza il pallone su quel campo. Poi insomma, è ovvio che coi piedi di Mutu e Cassano, due pali uno più bello dell'altro, si possono, il pallone può essere domato ugualmente, ma non tutti hanno i piedi di Cassano e Mutu, per esempio, a parte il fatto che poi questi campi sono anche pericolosi, è verissimo. I nostri impianti, oltre che brutti fuori, cioè quasi invivibili sulle gradinate, perlomeno nella stragrande maggioranza, sono anche assai poco adatti a un calcio di qualità. Paolo, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Niente, volevo fare un paio di appunti. Ieri ero allo stadio di Bergamo, sì, e mi sono vergognato per due motivi. A fine primo tempo ho abbandonato lo stadio. Primo, perché sono juventino. Secondo, perché sono arbitro. Proprio perché a Siena probabilmente ci sta l'errore tecnico, ma ieri a Bergamo era troppo evidente che non è stato un errore tecnico, è stato proprio qualcosa di pilotato l'aiuto alla Juve per poter pareggiare l'aiuto fatto all'Inter. Le polemiche di oggi sono smorzate, perché l'Atalanta può fare polemiche, ma è sempre una provinciale. Molto probabilmente, se la Juve non avesse avuto quel vantaggio, trovandosi a troppi punti di staccata dall'Inter, ci sarebbero state polemiche molto molto più ampie. E visto anche dalla tribuna, era troppo troppo evidente il fuorigioco per non essere visto dal guardalinea, soprattutto per chi come me ha l'occhio proprio da arbitro. Non visto dal guardalinea e non visto soprattutto anche dall'arbitro, perché comunque l'arbitro, anche se il guardalinea non segnala una posizione irregolare, non può non vederla nella linea in cui era. Beh sì, però questo diventa più difficile, perché sconfessare una decisione dell'assistente da parte dell'arbitro poi significa avere delle conseguenze, no? Più avanti. Magari i guardalinee, cioè gli assistenti, li chiami come vuole, ogni tanto si facessero i fatti loro, perché il caso più abnorme in assoluto di questa giornata secondo me è quello accaduto a Cagliari, e stavolta qua la sudditanza non c'entra. perché è stato un episodio che ha danneggiato il Cagliari e che è andato a favore della Regina. Al massimo servirà ad aggiornare le statistiche della Regina, perché dato che dal presidente al sindaco di Reggio Calabria sono sempre pronti a fare l'elenco, no, dei torti pazzeschi subiti dalla loro squadra, ogni tanto arriva anche qualcosina al contrario. Il rigore fischiato ieri a Bianco al difensore del Cagliari è uno dei più incredibili che ho visto nella mia vita, perché questo disgraziato cade al rallentatore, rischia di farsi fuori una clavicola per evitare, cadendo, di mettere un braccio sopra il pallone, probabilmente ci riesce, e se non ci riesce del tutto comunque è strapalese l'involontarietà di questo eventuale contatto, proprio perché sta cadendo, non sta cadendo apposta, e con la spalla sfiora, col braccio sfiora o non sfiora il pallone. L'arbitro valuta esattamente, e a quel punto interviene appunto un assistente che non sa farsi i fatti suoi nella fattispecie, e gli indica un fallo di mano volontario che a quel punto integra il rigore. Lì poi scatta l'inesperienza di un giovane arbitro, io credo, perché a quel punto non solo concede il rigore, ma valuta volontario, proprio da indicazione di assistente, valuta involontario quel colpo di braccio, ammonisce il giocatore che era già ammonito e lo espelle. Credo che sia davvero un caso limite. Poi è successo a Cagliari, e quindi ne stiamo parlando dopo quasi mezz'ora di trasmissione. Ieri sera, insomma, credo se ne sia parlato abbastanza poco. Capitava a San Siro o a Torino o all'Olimpico, e ci sarebbero stati morti fino al terzo piano, io credo. Tocca Angelo dalla provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno, dunque adesso è inutile tornare sugli argomenti del fuorigioco, perché tanto ci si parla solo perché va a buon fine, ma quanti fuorigioco che non vanno a buon fine, gli attaccati si fermano, che non sono fuorigioco, però non se ne parla perché non viene segnato il gol. Io volevo soffermarmi invece su una cosa che secondo me mi ha disturbato molto, così come ha disturbato l'anno scorso, quello è successo a Catania. Cioè, al di là del fatto di Zenga che è andato in incandescenza ed è una brutta immagine per tutti, però si è ripetuto quello che ho visto l'anno scorso all'ultimo di campionato, intorno al campo c'erano spettatori che non dovevano esserci, e ieri sera appena finita la partita c'era un sacco di gente in campo. Ma io voglio dire, ma la dove resta questa gente? Ma chi gli permette di entrare? Non lo so, è una bella domanda, in effetti. Ma io non lo so, dove va a finire? È quella che ha lei, e quindi abbiamo la sensazione, anzi abbiamo la certezza, che Catania da questo punto di vista sia extraterritoriale, nel senso che su tutti gli altri campi c'è un, con l'eccezione direi di Reggio Calabria, dove spesso si vedono o si sono visti in un passato anche recente tanti ma tanti presunti addetti, che poi addetti sono semmai all'intimidazione, quando capita, della squadra avversaria, a Catania questo fenomeno è addirittura abnorme. Ora, io sinceramente pensavo che quello che di vergognoso era accaduto nell'ultima giornata del campionato scorso fosse stato fatto passare in cavalleria, perché non aveva avuto poi un'incidenza decisiva sulla classifica, ma il presupposto di quel chiudere gli occhi sarebbe stato correttamente quello di dire: però da un altro anno la musica cambia. Ci segnala lei stesso appunto in che misura sia cambiata. Gabriele ha chiamato da Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno Garanzini. Volevo intervenire sul discorso delle sviste arbitrali. Sì. Io credo che sia le sviste arbitrali si compensano sempre. Mi sente? Sì, tra secolo ma la sento, sì. Pronto? Sì, la sto ascoltando, la stiamo ascoltando tutti, Gabriele. Pronto Garanzini? Va bene, allora l'abbiamo perso. Sinceramente la premessa era una premessa, per carità, non voglio mancare di rispetto all'ascoltatore, ma è la premessa del regime, no? Che poi alla fine gli errori si compensano tutti, e bisognerebbe per l'appunto raccontarlo alle piccole squadre, bisogna raccontarlo al Chievo, al Foggia, al Cagliari, che le sviste alla fine si compensano. C'è ancora un ascoltatore in linea che è proprio dalla provincia di Siena. Allora chiudiamo con lui questa prima parte del programma, poi aprirei con questo ritratto di Griselli apparso stamane sul Corriere della Sera. Aldo dalla provincia di Siena, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Allora, io stamattina stavo ascoltando una trasmissione sportiva a cui era ospite l'ex arbitro Casarin, e alla domanda di un telespettatore come ha fatto, insomma, a sbagliare quel fuorigioco, quel guardialine a Siena, dice mica saremo tornati, cioè oltre alla scarsità della categoria non ci sarà qualche altra cosa sotto, no? E Casarin, quasi risentito, ha detto ma no, no, no, non ne parliamo nemmeno di queste cose, non è possibile. Ecco, questi discorsi qui le facevano anche a tempi di Moggi, non è possibile, dei vari Bertini, dei vari Paparesta, dei vari De Santis. Ora, siccome io la ritengo una persona al di sopra la sua onestà intellettuale è al di sopra delle parti, ma secondo lei c'è proprio, cioè levato Moggi, è proprio stato levato tutto il marcio al calcio italiano? Io non credo. Io credo di sì, Aldo. Nel senso di marcio, sì, poi che bisogna sempre distinguere, l'abbiamo detto un milione di volte, bisogna distinguere tra un sistema di corruzione e il correre in soccorso del vincitore. Allora, il correre in soccorso del vincitore è lo sport nazionale per eccellenza, ma non nel calcio, in qualsiasi campo. E questo continua e continuerà ad oltranza. Quello che si è letto, sentito e che è stato documentato su un sistema di potere basato sulla corruzione, sull'intimidazione, su quello che si vuole, anzi, beh, insomma, mi pare che sia tutta un'altra storia. Tenga anche conto che una persona che riterrei leggermente più corretta di Luciano Moggi e che era stato imputato delle stesse accuse, che era l'ex amministratore delegato Giraudo, è sparito, non se ne è mai più saputo nulla da un punto di vista calcistico. Poi magari un giorno qualcosa in più torneremo a sapere, ma insomma anche questo, se ci ripensiamo un attimo, mi è sembrato un segnale, no? di distinzione, ripeto, tra imputati diversi. Rieccoci in onda. Questo articolo di Fabio Monti su Corriere di Stamane. Venerdì a Coverciano, insieme con l'arbitro Roberto Rosetti e l'altro assistente Paolo Calcagno, Alessandro Griselli, e cioè quello del gol convalidato a Maicon, Alessandro Griselli, livornese, ha ricevuto dal presidente Abete una delle tre targhe che la Federcalcio ha voluto consegnare a chi ha rappresentato tra gli applausi l'Italia a Euro 2008, arrivando a dirigere la finale di Vienna, Spagna-Germania 1-0. La terna era quella Rosetti, Griselli, Calcagno. Sabato Griselli, dopo aver fermato Crespo in posizione regolare, aveva lasciato andare Maicon, che ha firmato il gol della vittoria interista. Il primo errore può essere comprensibile, cioè quello di Crespo, il secondo no, perché non era in fuorigioco soltanto Maicon, ma anche Crespo e Cambiasso, perché non era una questione di centimetri, ma di metri, almeno due, perché non ci sono incroci tra chi attacca e chi difende, perché non ci sono interferenze per l'assistente, perché Griselli non è un esordiente, ma viene considerato il miglior assistente italiano. L'azione di Siena-Inter è stata così chiara che se un osservatore avesse guardato l'azione senza conoscere il colore delle maglie avrebbe immaginato una situazione capovolta. Esattissimo questa osservazione, tra parentesi, e cioè che i tre in linea vestiti di nerazzurro si stessero difendendo dall'attacco bianconero, cioè in altre parole che fossimo nell'altra area. Continua questo articolo. Griselli sarà sospeso da Collina. La speranza è di non vederlo più in azione fino al termine della stagione. Fare l'assistente non è un mestiere facile come mille altri, ma se uno non è in grado di rendersi conto dell'irregolarità delle azioni di Maicon, dovrebbe avere il buon gusto di fare un passo indietro. E poi qui comincia la parte storica. Griselli, assolto dalla giustizia sportiva il 19 novembre 2007, era uno degli assistenti di Lecce Parma 3-3 con arbitro De Santis e per questo graziato dal presidente Laia Gussoni, è uno dei 10 imputati al processo di Napoli per calciopoli, che ha chiesto il rito abbreviato insieme con Lanese, Rocchi, Cassarà, Messina, Dondarini, Baglioni, Foschetti e Gabrieni. Griselli, che aveva rappresentato, come detto, l'Italia anche al Mondiale 2006, vuole chiudere in fretta la vicenda napoletana, ma in un paese normale, uno come lui, nonostante la presunzione di innocenza, sarebbe stato sospeso fino alla conclusione della vicenda nel suo complesso, anche se i tempi della giustizia ordinaria sono quasi eterni. In Italia, invece, si trova sempre un cavillo per aggirare le regole. Se il giudice sportivo commina squalifiche non superiore a una giornata per non essere smentito dalla Corte di Giustizia federale, aperta parentesi, che è quello che sta accadendo in questo periodo anche in casi limiti come quelli di quel giocatore dell'Atalanta, chiuso la parentesi, non c'era stupirsi che sia riuscito a cavarsela anche chi era risultato coinvolto in Canciopoli, salvo isolate eccezioni. Il finale: conta poco che l'assistente Alessandroni a Bergamo abbia sbagliato, comunque meno di Griselli sul primo gol della Juve, perché errori del genere aiutano soltanto a screditare uno spettacolo che ha bisogno di recuperare credibilità in un momento di crisi generale. Il campionato non ha bisogno di sospetti. La decisione di Griselli ne alimenta a decine, compreso quello che l'errore di Siena gli potrebbe servire per spiegare davanti ai PM di Napoli che nel pallone si sbaglia sempre, prima, durante e dopo Calciopoli. Un grande articolo questo firmato da Fabio Monti, e c'è in linea un Fabio da Milano che non credo che sarà Monti. Buongiorno Fabio. Sì, buongiorno, salve dottore. Dica. Niente, no, assolutamente in linea con l'articolo che è stato anche appena, perché effettivamente il mio intervento voleva essere un po' in linea con questa discussione. Secondo me il discorso è molto semplice, nel senso che la disparità che esiste nella valutazione è legata fortemente alla disparità della valutazione dell'arbitro a seguito dell'errore che effettua. Ossia, cosa voglio dire? Praticamente noi vediamo che l'arbitro, se non ricordo male, Bergonzi, l'anno passato, quando diede due rigori contro la Juve nei Napoli-Juventus, fu sospeso per 3 mesi, mentre vediamo tutti i giorni che arbitri che fanno errori anche magari più grossolani nei confronti di squadre di rango inferiore non hanno assolutamente lo stesso tipo di punizione. Costa meno, costa meno, no? Questo vuol dire. Assolutamente. Allora è chiaro che l'arbitro che viene pagato a gettone, che la sua carriera è sviluppata sul numero di partite che arbitra e l'importanza delle partite che va a arbitrare, è condizionato da questo tipo di scelta. Sa benissimo che in un Inter-Siena, se valuta contro l'Inter si prende 3 mesi, se valuta contro Siena si prende 1 settimana. È chiaro che la decisione è facilissima da prendere, no, contro Siena. Sì, Fabio, adesso non è proprio così, non è che ci sia un tariffario così, così spudorato, perché se così fosse, se esistesse una casistica in materia precisa, allora non saremmo qua a occuparci, no, di pallone e di queste storie. Non è proprio così, certamente in parte, in qualche caso, in piccola parte, in qualche altro caso in maniera un pochino più abnorme è così. È anche vero che quello di Bergonzi lo scorso anno a Napoli fu comunque un arbitraggio al limite, esattamente come la decisione di Griselli dell'altra sera. Renato ha chiamato da Catania, buongiorno. Buongiorno dottor Gigi, come stai? Bene, grazie. Innanzitutto. Altrettanto. Volevo dire questo, io praticamente rispetto alla partita di ieri, volevo dire che obiettivamente è vero, probabilmente tutte quelle persone a bordo campo non ci devono stare, è vero che sotto questo punto di vista non è decisiva, forse come dice lei ha una sorta di extra territorialità, però anche l'Olimpico ce l'ha l'extra territorialità, perché è l'unico stadio che non viene mai squalificato, malgrado a Roma succedono sempre incidenti, accoltellamenti, cose varie, anche in campo europeo, però ha una sorta di impunità che non ha nessun altro stadio in Italia. E poi vorrei anche evidenziare il comportamento anche dei giocatori della Roma, probabilmente Zenga non è stato un grande professionista, ma direi che anche Mexes se lo potrebbe fare 4-5 giornate di squalifica. Ma io penso Renato che non sia facile giocare in un ambiente in cui l'intimidazione comincia quando arrivi allo stadio e finisce quando te ne vai, ma con un sacco di addetti in campo che e soprattutto penso che non sia facile giocare in quelle condizioni di replay rispetto a una farsa come era stata l'ultima partita del campionato scorso, quindi non mi sentirei di dare la croce a Mexes, anche se il suo non è stato indubbiamente un comportamento finale corretto, così come non lo è stato, anzi a maggior ragione non lo è stato quello di Zenga. Non è che paragonando delle aberrazioni, queste aberrazioni pesano meno, cioè, c'è indubbiamente un problema grave di ordine pubblico intorno all'Olimpico, e questo ogni volta che è possibile, ogni volta che accade qualcosa viene sottolineato e denunciato. C'è un problema altrettanto grave di ordine pubblico calcistico all'interno dello stadio di Catania, mi sembra altrettanto doveroso denunciarlo, e mi sembra ancora più incredibile che questo accada e si perpetui. Perché? Perché venire a capo di problemi di ordine pubblico in assoluto, al di fuori di uno stadio, come forse saprà, non è semplicissimo. Ma far rispettare la regola per cui nel sottopassaggio entrano soltanto le persone autorizzate e tutti quegli altri che non c'entrano nulla stanno fuori, non mi sembra un'impresa epocale. Walter ha chiamato da Genova, buongiorno. Buongiorno, io sono per una valutazione tecnica sul fuorigioco di ieri, quello che riguarda Atalanta-Juventus. Premetto, sono un tifoso juventino. Comunque, al di là di questo, volevo far notare semplicemente che il fuorigioco di ieri non è stato visto perché il guardialine, mi sembra evidente, io faccio il fotografo, quindi un po' di prospettiva, un po' di cose la conosco. Il guardialine aveva esattamente a 50 centimetri dalla sua faccia un giocatore della Juve che gli oscurava la visuale. Se lei si mette una persona a 50 centimetri, gli coprirà un raggio d'azione che è, diciamo, di almeno di 90 gradi. Quindi difficile vedere la prospettiva dietro e vedere gli altri uomini in linea. Quindi, e dato che è stata proprio, non era di metri, ma si parlava di quei 30, 40, non so quanti centimetri, mi sembrava molto difficile vederla. Quindi lo assolverei da quel punto di vista. Sì, sfiga, mettiamola così. No, non è sfiga, è questione tecnica. No, no, capito. Prospettiva, impallato, eccetera, eccetera. Io penso che lei sappia che gli assistenti sono spesso impallati in prospettiva, qualche volta anche da vicino, fa parte della loro esperienza maturata negli anni, quella di sapersi muovere a costo di muovere, pensi lei, addirittura il collo per sporgersi e fare in modo di non essere impallati da chi in quel momento ti sta davanti. Francesco da Roma, buongiorno. Buon pomeriggio. Dica. Allora, gli argomenti sono tanti sul tappeto, soprattutto anche quello arbitrale che lei ha aperto con quel bel pezzo di Monti del Corriere della Sera. Io su questo punto sono abbastanza netto. Siccome per queste persone, arbitri e guardaline, l'arbitraggio è diventato un secondo lavoro e forse un primo lavoro ben retribuito, chi sbaglia va a casa e non prende più i soldi. Punto. Siccome gli errori iniziano a essere parecchi, sì, bisognerebbe far capire a queste persone che non è in un calcio dove gira il solito discorso dei milioni che girano. Ecco Francesco, però dato che sento una terrificante puzza di demagogia che col Natale mi dà una particolare irritazione, facciamo così. Il guardaline di ieri che abbiamo sentito lo scottatore di prima e probabilmente anche impallato eccetera, questo va a casa come dice lei, perché cosa? Il portiere dell'Atalanta che esce a vuoto e quello davanti che sbaglia la spaccata, cosa fanno? Vanno a casa anche loro però. Beh, non dovrebbe. O lei mi sta dicendo abbia pazienza, perché o il sistema è marcio e allora questo guardaline l'ha fatto apposta e allora a casa ci deve andare a maggior ragione, ma ci deve andare sul serio per ragioni etiche, morali, perché non è degno di fare l'assistente. Se ha sbagliato, ma perché deve andare a casa lui e non Coppola che esce a vuoto come un coscritto, per esempio? No, io non dico che io parlo di incapacità, non dico che il sistema non faccio più. Ma non è capacissimo neanche un portiere che esce a vuoto, no? O no? Sì, assolutamente. Però allora non gli diamo lo stipendio. Dicono, può giocare in Serie A se un portiere fa un'uscita a vuoto. E perché può invece accadere, ovviamente. Ma perché non può giocare in Serie A se invece un eccellente portiere che ieri sbaglia un'uscita come ieri quest'altro ha sbagliato un fuorigioco? Ok. Cioè gli deviamo il lavoro a questi? Già, mi sembra che non sia un periodo fantastico per l'occupazione, no? Lo so, ma d'altra parte. No, è il secondo lavoro, tenga presente questo dei guardaline. No, spesso e volentieri è anche il primo, perché devono allenarsi sul serio. L'ho detto anch'io. Sì. Senta, la postilla, io avevo chiamato in effetti per la questione di Catania, ci sono già stati altri interventi. Sì. Volevo solo ricordare che l'anno scorso il pullman della Roma venne preso a sassate all'ingresso dello stadio. Certo. Quattro giornalisti vennero aggrediti. Lo so Francesco, non stiamo a rimangare tutto. L'importante è che da Catania non scrivano, come hanno appena scritto, che è un problema di rivalità con la Roma, perché sennò andiamo a tirare fuori Catania-Sampdoria e magari anche Catania-Empoli. Per cui lasciamo stare e speriamo che la federazione, la Lega e la federazione un giorno o l'altro si sveglino e decidano che l'extraterritorialità potrebbe essere conclusa qua. Andiamo in onda, questa musichetta natalizia, passerà anche il Natale, prima o poi passerà. Proviamo a ripassare nel frattempo la storia. Quindi oggi mi pare che sia di Flavio Suardi lo sguardo nel passato, cioè che cosa è successo nella storia dello sport il giorno 22 dicembre. Sembra ieri. 22 dicembre 2003, Pavel Nedved vince il pallone d'oro piazzandosi davanti a Thierry Henry e Paolo Maldini. Il ceco vince così il suo primo trofeo dopo aver conquistato lo scudetto 2002-2003 e dopo aver portato la sua squadra alla finale di Champions League, partita alla quale non ha preso parte perché è squalificato. Nedved diventa così il secondo giocatore ceco, dopo Josef Mazopust nel 1962, a ricevere il trofeo, il sesto bianconero dopo Omar Sivori nel 1961, Paolo Rossi nel 1982, Michel Platini nell'83, 84, 85, Roberto Baggio nel 1993 e Zinedine Zidane che ha conquistato il pallone d'oro nel 1998. Mazopust, era un po' che non lo sentivo nominare, un grande mediano cecoslovacco quell'anno, nel 62 la Cecoslovacchia giocò la finale mondiale contro il Brasile e credo proprio che andò in vantaggio con un gol di Mazopust, anche se qui potrei davvero sbagliare, vedo già di là dal vetro che qualcuno sta iniziando le ricerche. Sì, ci sono ancora molti ascoltatori. Allora cominciamo da Giovanni che ha chiamato da Modena. Buongiorno. Garanzini, buongiorno, auguri a tutti. Senta, un parere suo, prendendo spunto dal tennis, so che poi ne ha parlato tante volte di questo. Nel tennis, quando c'è una palla dubbia, c'è facoltà di poter chiamare la visione del colpo attraverso una telecamera, no? Uh-huh. Quindi viene ristabilita, diciamo, la verità. Non è applicabile nel calcio, immagino questo. Ma se si riferisce, che ne so, all'episodio di ieri, alla parata di Frey dentro o fuori, io penso che dovrebbe poter essere applicabile, anche se la palla non atterra lì, a differenza che la palla da tennis. No, ma anche riferito al discorso del fuorigioco, ad esempio, cioè lasciando la facoltà, non so, una chiamata per tempo per ogni squadra, diciamo. Ecco, però Giovanni, perché una chiamata per tempo? Cioè, nel caso di ieri, per esempio, fare una chiamata su un episodio, e se dopo c'è, ma nel caso di ieri o nel caso di sempre, e se dopo ce n'è uno anche più grave? Infatti nel tennis Garanzini è più di una. Certo, e il tennis ha una popolarità crescente, mi pare, no? O sbaglio? Beh, a causa della televisione a pagamento. Perché nel calcio la televisione a pagamento non c'è? No, ma lo stadio infatti c'è pochissima gente. Vedo qua a Modena che ormai ne vengono veramente in pochi a vedere lo stadio. Però, al di là di tutto, è chiaro che andrebbe perlomeno a favore o a tutela delle squadre più deboli. Questo si eviterebbe perlomeno, diciamo. Ma io su questo ho qualche dubbio, perché stia pur certo che i poteri forti troverebbero il modo di mettere... Perché poi ci vuole un giudice di Moviola, Un compromesso, però insomma è il meno peggio probabilmente, no? È chiaro che dal punto di vista etico non si può fare una, tra virgolette, una rivoluzione, però perlomeno si darebbe uno strumento in più a chi ha poco potere di difendersi sul campo. Ma Giovanni, ma non lo so, io, cioè, questa è una vecchia discussione, lei la pensa in un modo, io la penso in maniera diametralmente opposta e non ho alcuna pretesa di aver ragione, però lei ha idea tra 10 episodi discussi di una domenica quanti sarebbero risolvibili con la moviola? Quanti secondo lei? Beh, ieri ad esempio, cioè nell'oggetto di oggi, della trasmissione di oggi, che è prevalentemente legato al discorso del fuorigioco della Juventus e cioè quello dell'Inter, avremmo risolto. Sarebbero stati quei due episodi lì. Meno, cioè, ecco. Lo so. E tutti gli altri? Ho messo Garanzini, meglio di così, non avevo nessuna idea. Insomma, però, no. Prendendo spunto dal tennis, perlomeno, insomma, è sì, una prova. Ma non è soltanto. Non è soltanto nel tennis, è per quello. Ma io credo di no, però ciascuno è veramente libero di pensarla come meglio crede. Giacomo, provincia di Varese, buongiorno. Buongiorno. Dica, una domanda Giacomo. Rapida, anche se esco un po' dal sentiero che abbiamo tracciato oggi sugli altri. Esca, che non era un bel sentiero, dica. No, la colpa è mia, sì. No, ma non si figuri. No, io sono un tifoso interista e chiedevo un po' cosa ne pensa lei della vicenda Adriano e se finalmente riusciremo a levarci quantomeno dall'Italia. Ah beh, mi sembra che lei sia un po' tranchant. Sì, visto che lei la pesa così, penso proprio che sia la volta buona, perché mi pare che Malesani, sì, che Mourinho la pensi esattamente come lei, e stavolta sia bello lanciato, scatenato. Oh, ci avevo preso, gol di Masopust all'inizio di quella finale, gol d'apertura di questo grande mediano cecoslovacco nella finale mondiale del 62, e poi rimonta con Amarildo e Vavà e secondo titolo consecutivo al Brasile. Con Giacomo abbiamo parlato, tocca a Franco che ha chiamato da Bergamo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Buongiorno a tutti, dottor. Mm-hmm. Senta, io sono un tifoso dell'Atalanta, ho visto la partita, tutto sommato alla fine dico va bene, la Juve. Sono stato contento per come ha giocato la squadra. Riguardo all'errore del guardialine, posso quasi essere d'accordo con l'ascoltatore di Genova che diceva, sì, che probabilmente, ecco, l'unica possibilità che poteva avere era quella di essere impallato. Una cosa che non accetto però, perché però io accetto gli errori, perché tutti facciamo errori, non accetto gli errori, accetto gli errori degli arbitri di guardialine giovani, perché quello di Cagliari, per carità, per avere un errore così grosso deve essere solo che fatto in buona fede, sì, perché è assurdo. Mentre invece non contesto un attimino arbitri dell'esperienza internazionale come Farina, che davanti a lui succede il fallo commesso su Floccari, non lo ammonisce perché è caduto platealmente, prende e se ne va, non è successo nulla. Cioè, io queste cose non ammetto, arbitri che comunque probabilmente il nostro ministro, adesso non mi ricordo più bene il nome, cioè dovrebbe abbassare l'età pensionabile a certi arbitri che praticamente probabilmente restano ancora con il fatto di avere la divisa d'arbitro che gli dia dei poteri non so quali, mentre sono comunque persone come tutti sbagliamo. Farina era già in pensione, per la verità, è stato ripescato dalla pensione proprio per impolpare un pochino i ranghi arbitrali con una pedina di esperienza e insieme affidabile. Poi di esperienza non c'è dubbio, affidabile si può discutere. Ma tutto si può discutere, perché per esempio, non so, leggo dichiarazioni di ogni genere. Stamane il presidente della Juventus, Bolli Gigli, ha detto: quando ci sono azioni in fuorigioco e gli allenatori lo ammettono, ma insomma sono cose che succedono a tutti, gli arbitri fanno un mestiere molto difficile, noi non vogliamo mai alimentare le polemiche. Mi sembra di ricordare lo scorso anno una lettera ufficiale di fuoco, che non aveva precedenti nella storia del calcio italiano, indirizzata alla Federazione Italiana Gioco Calcio da parte del presidente della Juventus a proposito proprio di quella trasferta a Napoli, in cui, ricordata prima da qualcuno, i cui ne aveva combinati di tutti i colori. Ma non è stata l'unica dichiarazione del presidente Cobolli in queste ultime ore. Ieri, per esempio, a Bergamo ha dichiarato quanto segue, lo leggo da Repubblica: in questi ultimi 3 anni mio maestro è stato Giampiero Boniperti, che mi ha spiegato che le partite è meglio vincerle sempre e in qualsiasi momento, anche all'ultimo minuto e anche in fuorigioco. Tocca a Matteo da Piacenza, buongiorno. Salve signor Garanzini. Buongiorno. Io volevo tracciare un bilancio di fine anno sulla classifica. Sì. Un mese e mezzo fa parlavamo di Napoli, Udinese e l'Asso nel primo posto della classifica, e adesso invece li troviamo insomma abbastanza staccati dalla vetta. Cosa pensa lei? Sia una questione di rosa non competitiva o che comunque le grandi squadre alla fine vengono fuori? Grazie. Penso che le grandi squadre alla fine vengano fuori in assoluto per valori tecnici. Penso che quando i valori tecnici non riescono a far risaltare in piena la differenza, subentrano altri valori, e ne stiamo parlando ormai da quasi un'oretta. Penso anche oggettivamente, ma come vero argomento forte, penso che le tre squadre favorite già dalla vigilia fossero quelle che adesso sono ai primi 3 posti, e quindi sorprese poche. Credo che sia in linea con le speranze, con le attese per l'appunto della vigilia, sia la Fiorentina, ma penso che Napoli e Genoa siano anche andate al di là di quello che ci si poteva aspettare. Poi andare al di là delle attese non significa essere in testa alla classifica, significa che se dopo 17 giornate il Napoli ha messo insieme 30 punti, il Genoa 29, mi pare che abbiano fatto molto, il Catania 25, queste sono squadre che sono andate parecchio più in là di quello che si pensava, il 21 del Cagliari, considerando che sono partiti, che le giornate ne ha giocate 12 praticamente, perché le prime 5 le ha perse tutte. Ci sono anche dei riscontri obiettivi. Il Cagliari, per esempio, è la squadra che ha fatto più punti rispetto allo scorso anno nello stesso momento del campionato, dopo 17 giornate. Il Cagliari ha più 11 addirittura, il Genoa ha più 10, la Lazio è a più 9. Bisogna sempre distinguere tra gli obiettivi di partenza e i potenziali, no, a disposizione, e poi quello che invece si è fatto di reale. Vincenzo, chiuderei con lei da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno, sono tifoso juventino. Due piccole cose, sono d'accordo con l'ascoltatore che diceva, quello il fotografo che diceva che i guardalini l'hanno impallato, solamente che a parti invertite sicuramente avrebbe alzato la bandierina. Lei dice, impallato o non impallato, se era chi è, i Flocari, non so, Padoin, eh? E un'altra cosa poi volevo chiedere, Maicon sabato sera che ha tolto la maglietta nelle sostanze, penso sia stato ammonito. Sì. Io ho notato che in partita di Coppa Campioni Sissoko della Juve a partita finita ha fatto un fallo per venire ammonito e saltare l'ultima partita del girone e essere presente poi quella dopo, in pratica. Sì. No, è che a volte questi giocatori si tolgono la maglietta per essere ammoniti e venire squalificati in una partita magari meno importante. Potrebbe anche essere, ma vorrebbe dire farli troppo intelligenti, secondo me. Io invece credo che nella maggior parte dei casi l'imbecillità di questo gesto di esultanza che non ha veramente alcuna, se ci fermiamo un attimo, non ha alcuna spiegazione. Credo che la prevalenza del quella, insomma, il vecchio titolo di Fruttero Lucentini storico, no? La prevalenza del cretino, io credo che sia quella. Poi può darsi che in qualche caso ci sia anche il calcolo. Grazie a Filippo Ureggi in regia, grazie a Flavio Suarni in redazione, ci sentiamo regolarmente domani.